Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Anche Borsellino e Biagi erano dipendenti pubblici e rappresentano gli eroi, mentre Enrico Fermi, anche lui dipendente pubblico, rappresenta i campioni. Ma come definire l'impiegato che in un anno accumula 120 giorni di assenza? E come possono convivere persone tanto diverse nell'amministrazione pubblica? Si chiede Giovanni Valotti nell'introduzione al suo libro Fannulloni si diventa. Il settore pubblico ha poco più di 3.500.000 dipendenti, meno di quanti ne avesse 20 anni fa e più o meno in linea con la situazione attuale dei paesi a noi più vicini. Non c'è quindi nulla di strano o di eclatante nei numeri in assoluto, anche considerando il fatto che il settore pubblico rappresenta circa il 50% del PIL del nostro paese. Il tema vero è la produttività di questa massa di dipendenti. Cominciamo dal tema di maggiore attualità, la lotta ai fannulloni e la riduzione dell'assenteismo. Non esistono, sempre che siano possibili, rilevazioni puntuali e attendibili sul numero dei fannulloni. Questi non sono semplicemente quelli che non vanno a lavorare, ma includono anche, come li chiamano gli olandesi, i cosiddetti dormiglioni, ovvero dipendenti tanto puntuali nel rispettare l'orario di lavoro quanto improduttivi, in quanto svogliati o, più semplicemente, incapaci. Dobbiamo allora partire da un principio di fondo. Il settore pubblico ha un dovere di efficienza superiore a quello del privato, poiché le risorse sprecate sono sottratte a usi che rispondono a bisogni primari della società. Gli sprechi e le inefficienze nel privato sono, di regola, sanzionate dal mercato. Gli sprechi e le inefficienze nel settore pubblico sono semplicemente intollerabili. È questo un importante principio dell'etica dell'amministrare e gestire la cosa pubblica, al quale si sono sempre ispirate le figure che hanno dato lustro al nostro paese. Ma i fannulloni producono un effetto negativo aggiuntivo, fanno perdere la speranza ai dipendenti bravi e meritevoli, ovvero creano all'interno delle organizzazioni un'atmosfera negativa e di sfiducia, che deteriora gli ambienti di lavoro e mina alle basi la motivazione delle persone. I fannulloni non devono quindi essere tollerati dalle organizzazioni, ancor prima che dai cittadini, pena il rischio di una crescente disaffezione proprio da parte di quei dipendenti sui quali le organizzazioni stesse si reggono per produrre i risultati. La lotta ai fannulloni è quindi un principio di buona organizzazione, ancor prima che un contributo al risanamento della malandata finanza pubblica. Ma fannulloni si nasce o si diventa? Se potessimo rispondere si nasce, il problema della riforma del settore pubblico sarebbe probabilmente più semplice. Si tratterebbe semplicemente di migliorare i meccanismi di selezione all'ingresso, rigettando con decisione le candidature geneticamente sospette di fannullonismo, piuttosto che individuare ed estromettere i fannulloni operanti nel settore pubblico. Purtroppo la mia personale convinzione è che fannulloni si diventa. Mi sono nel tempo convinto che la categoria dei fannulloni sia troppo generica. Ovvero esistono nella realtà tante diverse specie di fannulloni, all'interno delle quali la categoria del fannullone genetico esiste, ma rappresenta un'assoluta minoranza. Nella maggior parte dei casi i fannulloni sono prodotti dalle organizzazioni e in particolare alcune amministrazioni pubbliche si sono, nel tempo, specializzate in questo. I primi potenziali fannulloni sono i disillusi, ovvero persone non necessariamente incapaci, ma che nel tempo hanno perso la voglia di impegnarsi e che solitamente ricercano al di fuori del luogo di lavoro le proprie soddisfazioni personali. È l'ampia categoria di coloro che lavorano per vivere, ma che, se solo potessero, ne farebbero volentieri a meno. Spesso hanno iniziato la loro avventura lavorativa carichi di entusiasmo e aspettative, incontrando poi nel loro percorso professionale tante piccole e grandi delusioni, sino a minarne nel profondo la fiducia verso un futuro ricco di interessi e soddisfazioni. Una seconda categoria di fannulloni sono gli incompetenti, persone che nel tempo hanno conosciuto percorsi di obsolescenza professionale, oppure si sono ritrovate a ricoprire posizioni per le quali non avevano né l'attitudine né la preparazione necessaria, risultando in entrambi i casi inadeguate rispetto ai compiti da svolgere e alle funzioni da presidiare. Qualunque persona si trovi in questa situazione vive uno stato di profondo disagio personale e cerca, in ogni modo e con ogni escamotage, di sfuggire alle responsabilità, quasi preoccupata di non farsi scoprire. Una terza categoria di fannulloni sono i demotivati, ovvero persone che non trovano nei contenuti di lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle relazioni con i colleghi, nelle prospettive di sviluppo personale e professionale, solide giustificazioni a un impegno al massimo delle proprie energie e potenzialità. I demotivati, solitamente, giocano al risparmio, schivando gli impegni sulla base del presupposto che non si tratta di cose interessanti di cui occuparsi o che comunque non ne valga la pena. L'ultima categoria è quella delle vittime, ovvero persone che per le ragioni più disparate non hanno all'interno delle organizzazioni le soddisfazioni e i riconoscimenti che si meriterebbero. Nei casi estremi ciò configura situazioni di mobbing. È forse la specie di fannulloni più difficilmente riconoscibile, perché facilmente si confonde con quella dei miracolati che si sentono penalizzati, ovvero con le persone che, pur ricoprendo posizioni al di sopra dei propri meriti e capacità, per definizione hanno un atteggiamento rivendicativo nei confronti dell'organizzazione a cui appartengono. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Giovanni Valotti, Fannulloni si diventa, una cura per la burocrazia italiana. Egea Università Bocconi Editore, 180 pagine, 15 euro. Nelle scorse settimane aveva suscitato orrore la scoperta che al cimitero di Staglieno, a Genova, alcuni dipendenti dell'amministrazione comunale avevano l'abitudine di profanare le tombe per commettere dei furti. Ma il direttore generale del comune di Genova trova il modo di giustificarli. Il primo obiettivo della Banda delle Salme, come è stata definita, era quello di recuperare protesi dentali, anche non d'oro, e protesi ortopediche in acciaio, titanio e altre leghe leggere pregiate, nonché di sottrarre ai cadaveri esumati anelli, collarini, monili, oggetti comunque di valore, lasciati loro addosso per ricordo dai parenti all'epoca della sepoltura. Il materiale così rimosso veniva suddiviso in bacinelle e stoccato all'interno degli armadietti degli addetti ai lavori. Le protesi dentarie venivano acquistate in blocco da un ex dipendente dei servizi cimiteriali del comune, mentre per le protesi ortopediche ciascuno badava al caso suo. Quello che restava dei defunti depredati, le ossa umane spolpate, veniva poi gettato in un cassonetto della spazzatura nei pressi del cimitero. Per secondo obiettivo, invece, i nostri si erano prefissi il recupero delle casse in legno pregiato prima della cremazione, pratica ormai molto diffusa dopo l'esumazione e largamente favorita dalle nostre leggi, in modo da rivenderle sul mercato dell'usato. Terzo obiettivo, furto di arredi di interesse storico e artistico. Le lapidi più preziose venivano intenzionalmente rovinate per poterle rimuovere e rivendere i marmi pregiati sottratti. Infine, l'operazione sogliola, ossia la riduzione delle bare originarie in loculi di forma più contenuta, senza attendere la scheletrizzazione del cadavere, in modo da ricavare maggior spazio da vendere in nero. Un'attività pianificata con tanta cura, effettuata ormai da anni, non credo neppure possa dirsi rientrante nelle fattispecie delittuose dei nostri articoli 407 e seguenti del Codice Penale, i delitti contro la pietà dei defunti. Ma questa piccola impresa della profanazione agiva davvero per scopo di lucro o c'è qualcosa d'altro, di più inconsapevole, di più profondo? Non siamo certo di fronte al tipico caso di furto al cadavere. Questi sciacalli pagati dal comune, come sono tuttora, seppure destinati a nuove mansioni, si erano trovati un modo di arrotondare lo stipendio non soltanto rubando, ma saccheggiando resti mortali e profanando tombe, con una precisione e un'indifferenza per i morti senza precedenti. Ce ne sarebbe da rimanere quantomeno indignati, o forse sbaglio. Sbaglio. Ecco infatti le reazioni del direttore generale del comune di Genova, signora Maddalena Danzì, come riportate dalla stampa locale. Le presunte razzie non mi colgono di sorpresa. Questi lavoratori, sempre a contatto con la morte e addetti a un'attività ritenuta socialmente poco qualificante, sono soggetti ad un abbruttimento psicologico. Per questa ragione c'è bisogno di una vigilanza sanitaria del loro stato psicologico. Dulcis in fundo, personalmente comunque mi fa più orrore una turbativa d'asta, l'omissione di atti dovuti o chi utilizza una carica pubblica per interesse dei terzi. Questa è la persona che sta mettendo mano alla riorganizzazione dei servizi cimiteriali genovesi? Non so, sinceramente, se sia più socialmente qualificante del lavorare in un cimitero, il pulire cessi in ospedali schifosi o il raccattare la monnezza sulle strade. Sono tutte attività socialmente indispensabili e chi la esercita va trattato con il rispetto che si deve a ciascuna persona, indipendentemente dall'attività che svolga. Ma se il neturbino, invece di raccogliere la spazzatura, la gettasse per le vie? Sedute psicoanalitiche per tutti? Insomma, alla direttrice generale fa molto più orrore, tanto per fare un esempio concreto, la mancata contestazione di una contravvenzione stradale da parte di un vigile urbano a un suo conoscente. Ma com'è possibile, mi chiedo, che si possa considerare bagatellare la profanazione sistematica di tombe e resti mortali? Cara direttrice, forse non c'è affatto di che sorprendersi per quello che è successo al cimitero. È solo il capolinea della nostra disumanizzazione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Becchi «A Genova c'è chi giustifica la profanazione di tombe» dal Riformista del 14 luglio. Letture di Radio 24. Nel suo libro Memorie di una lettrice notturna, Elisabetta Rasi traccia una serie di ritratti dedicati alle sue scrittrici preferite. Prima però spiega come è nata la sua passione per i libri, soffermandosi soprattutto sul piacere di leggere di notte. Per molto tempo ho creduto che i libri non avessero autore. Pensavo che si scrivessero da sé. Ho cominciato a leggere libri la sera, prima di addormentarmi, verso gli 8 anni. Quando ero più piccola, mia madre o mio padre mi raccontavano una storia oppure me la leggevano per convincermi a dormire, che non era impresa facile. Ma presi quell'abitudine anche per un'altra ragione. Tutti a casa mia leggevano. Mia madre, che era la grande lettrice, amava i grandi contemporanei. Mio padre cercava di tenersi aggiornato sulle novità che si pubblicavano in Francia, il paese in cui aveva fatto gli studi superiori. Inoltre era lui che possedeva le chiavi della biblioteca di famiglia, non molto vasta ma invece molto decorativa, perché si trattava di volumi ottocenteschi e di inizio novecento con delle eleganti rilegature, rosso bordeaux, blu notte, verde scuro, amaranto, castano, azzurro, rosso fiamma, talvolta arabescate di caratteri d'oro. Quei volumi stavano dietro le grate arricciolate di un bel mobile antico a tre ante, orgogliosi testimoni di una sapienza perduta in quel nostro confuso e disgraziato mondo del dopoguerra. Quei volumi stavano dietro le grate arricciolate di un bel mobile antico a tre ante, orgogliosi testimoni di una sapienza perduta in quel nostro confuso e disgraziato mondo del dopoguerra. Anche la nonna paterna parlava di libri, ma non so se i suoi orari le permettessero davvero di frequentarli. Usciva al tramonto e tornava all'alba, come i vampiri, e in quelle ore leggeva molto, con competenza, anzi direi accanimento, ma soltanto le carte da gioco che erano la passione delle sue notti e della sua vita. L'altra mia nonna, quella materna, che a differenza di noi che stavamo a Napoli viveva a Roma, di libri in generale non parlava mai. Ma aveva sempre tra le mani molti santini o immaginette, con le loro speciali preghiere da recitare, e sfogliava anche qualche testo di catechismo, perché invece la sua passione era la Chiesa. Per fortuna avevo una terza nonna, la mia bisnonna paterna. Io la chiamavo semplicemente nonnina, ed era forse la persona allora per me più affascinante dell'intero contesto familiare. La mia bisnonna, che era una vera gentildonna, sapeva molte storie aristocratiche e altrettante ne trovava in certi volumetti con un'incantevole copertina rosa che li faceva sembrare una scatola di zuccherini. Tali scatolette costituivano una parte della sua piccola biblioteca e sul cartone rosa portavano una parola dal suono squillante e seducente: Delli. Probabilmente quei libri cominciai a leggerli prima ancora degli 8 anni. Ritenendoli semplicemente un'estensione o un completamento o un supplemento di indagine delle storie di visconti e baroni familiari che nonnina mi raccontava, mentre come le fanciulle delle fiabe ricamava accanto alla finestra. Tra l'altro mi sembravano molto più credibili le storie dei volumetti rosa e sensate di quelle del nostro fantomatico casato. Insomma, in casa, in quegli anni della mia infanzia napoletana, benché tutto cominciasse a latitare, dalla concordia domestica al denaro, i libri invece non mancavano. Comunque, tra tanti libri, non c'erano libri miei. Io possedevo solo fumetti di Topolino e Company, che però mio padre teneva in gelosa custodia, tanto più che era lui a leggermeli nei nostri momenti di idillio. Fu verso gli 8 anni che fu iniziata quella strana, tormentosa forma di proprietà che è la proprietà dei libri. Ma non furono i miei genitori, che in genere quando si rivolgevano a me erano piuttosto pedagogici e costellavano di ottime intenzioni la strada dei loro bizzarri e non proprio educativi comportamenti, a comprarmeli. I libri mi furono additati come la forma più alta e più desiderabile di regalo. Non solo gli amici intellettuali di mia madre, ma anche le amiche con l'R francese di mia nonna, o certi suoi collerici o malinconici compagni di gioco eleganti e rugosi. Se costoro volevano farmi un regalo, solo di libri doveva trattarsi. Fu così che i libri entrarono a far parte del mio patrimonio infantile, il cui pezzo forte, fin lì, era stata una piccola collezione di cavallucci marini essiccati che mio padre e io trovavamo talvolta in vendita da certi ambulanti di Mergellina. I libri, cioè degli oggetti piuttosto gradevoli a vedersi, a toccarsi e talvolta ad annusarsi. Dei libri che ricevevo in regalo, mi piacevano soprattutto quelli rilegati in una finta pelle che era vera plastica. Quella materia indistruttibile mi sembrava un segnale della modernità incipiente, lucente, solida e per giunta profumata. Non ho mai più sentito l'impareggiabile profumo che si diffondeva da quelle copertine, ma ancora oggi non l'ho dimenticato. Il profumo di una chimica gentile che mezzo secolo fa sembrava fatta apposta per ingentilire la vita degli umani. Poi c'erano i libri con le copertine di cartone, illustrate con disegni talvolta naturalistici, talvolta stilizzati. Tutti avevano delle figure dentro, non meno importanti delle parole. E tutti, naturalmente, mi portavano una storia e mi trasportavano dentro una storia. Ma non avevano autore, no. Quei libri non avevano autore. Erano un pezzo di vita, un pezzo essenziale, che la sorte mi consentiva di vivere. In realtà i miei genitori dicevano talvolta ai futuri donatori che chiedevano indicazioni per un compleanno o un Natale che io avrei dovuto leggere Dickens e Kipling o Mark Twain. Era il momento giusto. E in effetti, quando il regalo arrivava, loro ripetevano Dickens e Kipling e Twain, guardando con soddisfazione i volumi che mi erano stati destinati. E io sapevo che di Kipling e Dickens o di Twain si trattava, ora dell'uno, ora dell'altro, quando ricevevo i doni. Ma quei nomi erano qualcosa di simile a una località geografica. La regione del tempo e dello spazio dove le storie che in quei libri si narravano erano avvenute e soprattutto continuavano ad avvenire. Era impensabile per me che Kim fosse stato inventato da qualcuno. Kim era un ragazzino di cui facevo conoscenza, esattamente come Tom Sawyer o David Copperfield. Il libro era il loro territorio dove fortunatamente mi era capitato di entrare e quelle storie non erano inventate. Erano storie che stavano succedendo a loro e anche a me, penetrata nel loro campo d'azione. Tom era cittadino del paese Twain, Kim del paese Kipling, che evidentemente stavano in aree differenti se non si conoscevano tra loro. Ma davvero non si conoscevano? E del resto io potevo farli conoscere perché quei paesi li frequentavo entrambi e stavo frequentandone altri ancora e potevo entrarci, uscirne e rientrarci quando volevo. Normalmente leggevo di notte e la mattina svegliarmi era un tormento. Mi piaceva leggere quasi tutta la notte d'estate, quando finiva la scuola e potevo lasciare le due finestre della mia stanza aperte. L'aria entrava e usciva, portando gli odori e i rumori del buio, il profumo notturno degli alberi, l'essenza indefinibile della polvere calda e umida, il lamento di qualche cane nostalgico o infuriato e le urla stonate dei gatti pazzi di passione e gelosia, oppure il sibilo delle auto che nella strada dove abitavo, a quel tempo una casa diversa da quella del soppalco, non erano frequenti. E alle 2 o alle 3 del mattino insinuavano il fascino di una vita che continuava molto a lungo dopo che le famiglie avevano chiuso le persiane. Di quella vita di cui anche i libri facevano parte, una vita piena di suono e di senso e abitata da molti sentimenti che capivo, condividevo e non sapevo definire. Amavo i libri lunghi, che duravano molte notti. Amavo quell'intimità particolare che si crea di notte tra un libro e il suo lettore e ho continuato ad amarla negli anni che sono seguiti. I libri che veramente amo, cerco sempre di leggerli di notte. Ma la figura dell'autore continuava a essere disincarnata. E a renderla ancora più astratta ci stava pensando intanto la scuola. Non che incoraggiasse o scoraggiasse la lettura proponendo liste di autori da leggere o non leggere. Nessuno allora pensava che bisognasse educare alla lettura, ma piuttosto di fare in modo che tutti potessero avere accesso a questo piacere. E se a uno non piaceva, pazienza, peggio per lui. Quegli anni 60 del Novecento, in cui sono passata dall'infanzia all'adolescenza fino al debutto nella giovinezza, erano un'epoca di frontiera anche per quanto riguardava la lettura. Molti ragazzi del mio ginnasio e poi liceo non avevano mai visto un libro a casa loro. Gli unici libri che conoscevano erano gli sgraziati testi scolastici, che avevano la caratteristica di costare un sacco di soldi, di decadere da un anno all'altro come monete sospinte continuamente fuori corso da una speculazione incessante e di sfogliarsi già al primo trimestre. Libri mollicci, dalla copertina grigia e dalla carta lucida, sulla quale era difficile sottolineare le frasi significative. Però nell'edificio del mio liceo c'era al primo piano una bella stanza d'angolo molto luminosa che la tenacia di qualche insegnante tanto appassionato quanto malpagato aveva trasformato in una biblioteca. Quel locale sobrio e allestito alla buona operò una trasformazione radicale della lettrice che ero, per varie ragioni. Quei libri li sceglievo io, non erano i libri che trovavo in casa o che mi regalavano, non mi arrivavano grazie alle idee e ai gusti di parenti e amici, anzi, erano una delle possibili strade per allontanarmi dalla rete domestica. Inoltre, c'erano molte opere di autori italiani contemporanei, cioè opere con nomi propri consueti, paesaggi, arredi, abiti, oggetti conosciuti, vita ordinaria e vicina che era sorprendente e emozionante, proprio perché così familiare, trovare in un romanzo. E per orientarsi non c'era altro modo che il nome dell'autore, che smise per sempre di essere un paese, un albero, un fantasma, il nato morto dei libri di testo. Quelle storie, con le mie amiche e i miei amici, ce le scambiavamo, ne parlavamo, diventavano tramite di simpatia e persino amore. Ne parlavamo non da letterati, ovviamente, ma come fatti nostri, altri fatti nostri, non meno importanti di quelli della routine quotidiana. Questo significava che quegli autori tornavano a noi non più come delle figure storiche, dunque nella necessaria esteriorità delle figure storiche, ma come un io, o anzi come un sé intimo che allertava il nostro sé, lo chiamava a mettersi in movimento e a dare imprevedibili e inediti segnali di esistenza. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Elisabetta Rasi, Memorie di una lettrice notturna. Rizzoli Editore, 264 pagine, 18,50 euro.